colori, anche se è nato in mezzo ad un deserto fatto di perché, i dubbi fanno ombra, il torpore se che porta via, e tutto sembra una poesia, invece no, questo è ciò. Sentirti accarezzare.